I piedi di Giuda. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13 versetti 2-3. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Molti conoscono il famoso episodio, unico nei Vangeli, in cui Gesù lava i piedi ai discepoli. Leggendo i Vangeli si nota che i discepoli facevano spesso a gara per cercare di avere i posti migliori, interrogandosi su chi di loro fosse maggiore degli altri. Svolgendo un compito che sarebbe spettato ad un servo, Gesù, poche ore prima di affrontare la croce, insegnò loro che l'unica gara tra loro sarebbe dovuta essere quella di servirsi a vicenda. Se lui, che era il maestro, prendeva il posto del servo, tanto più avrebbero dovuto farlo i suoi discepoli gli uni verso gli altri. Infatti, egli disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate». Questo è scritto in Giovanni, capitolo 13, versetti 12-17. Il verso che abbiamo letto all'inizio di questa riflessione afferma che Gesù lavò i piedi ai discepoli quando Giuda aveva già in cuore di tradirlo. Ci avete mai pensato? Gesù sapeva bene questo fatto, al punto che subito dopo aver lavato i piedi ai discepoli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti», perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti», scritto nei versetti 10 e 11. Subito dopo lo dichiarò anche a tutti i presenti, dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà», scritto nel capitolo 13, versetto 21. Ed è esattamente ciò che accadde nelle ore seguenti. Il brano ci mette davanti due livelli di difficoltà che siamo chiamati a superare. La prima difficoltà è quella di dover lavare i piedi gli uni agli altri, capire che la nostra sfida giornaliera è quella di servire il nostro fratello, la nostra sorella, piuttosto che pretendere di essere serviti e riveriti. Nel mondo in cui viviamo, dominato dall'individualismo, questa sfida è già di per sé difficile da affrontare. Siamo abituati a mettere noi stessi al centro di tutto, mentre Dio ci invita a guardare all'altro, a colui che ci sta accanto, accogliendolo e servendolo come un servo fa con il suo Signore. Ma la difficoltà diventa quasi insuperabile quando consideriamo il secondo livello di difficoltà che Gesù ci mette davanti in questo racconto. Non solo Gesù ha preso il ruolo di servo per lavare i piedi ai suoi fratelli e ai suoi amici, egli ha lavato i piedi di colui che lo avrebbe tradito, sapendo perfettamente quello che Giuda stava per fare. A questo punto ci sentiamo smarriti, quasi sopraffatti dalla grandezza del compito che ci viene messo davanti. Sarei in grado di lavare i piedi di Giuda sapendo ciò che sta per farmi? Sarei in grado di amare il mio nemico al punto da fargli del bene, pur sapendo che riceverò solo del male in cambio? Riteniamo già difficile amare il nostro nemico al punto da non cercare la vendetta, ma saremmo in grado di fargli addirittura del bene? Pensando ai piedi di Giuda, mentre Gesù li deterge, trattandolo come aveva trattato gli altri discepoli, non posso fare a meno di interrogarmi su quanta strada ho da fare per riuscire ad amare il prossimo come ha fatto il mio maestro.